credi ancora nella scritta su quel muro di Montevideo? Che potremo ballare ora che sai quanto è dura camminare su aerei, sperando che almeno uno possa cadere. Spiaggia in attesa di un'onda che lo possa cancellare. Salirai sul pullman delle 11:20.